Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, sono le 17:07 minuti, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Focus Economia. Oggi è giovedì 11 giugno. I temi che approfondiremo nella giornata di oggi: la crisi ha contribuito a portare al centro dell'attenzione del paese quelle piccole imprese che costituiscono oltre il 99% del sistema produttivo. Con queste parole il presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini ha aperto i lavori dell'Assemblea a Roma e quindi noi vi faremo ascoltare le voci, gli interventi dell'Assemblea. E poi parleremo di un convegno che si è aperto oggi a Venezia sull'importanza delle relazioni lavorative e non in un momento di crisi come questo, un'importanza concreta che possa generare miglioramenti e anche ricchezze, non solo quindi per riempirsi la bocca e le orecchie di belle parole. Poi parleremo della relazione annuale dell'ISVAP, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, e poi spazio anche al calcio, perché come avete sentito anche dal nostro GR, noi cercheremo di capire come una società indebitata fino al collo come il Real paga oltre 90 milioni di euro per Cristiano Ronaldo. Spazio ovviamente anche ai mercati. In questo momento che cosa sta succedendo? Il Dow Jones guadagna lo 0,54%, il Nasdaq lo 0,55%, lo Standard & Poor's lo 0,65%. E questo grazie anche a un dato arrivato oggi dagli Stati Uniti relativo alle richieste di sussidio di disoccupazione, che sono diminuite di 24.000 unità la scorsa settimana a quota 600.000 circa. L'andamento di Wall Street ha dato nuovo impulso ai listini europei. Parigi guadagna poco meno di mezzo punto, Francoforte un punto percentuale, Londra lo 0,94%. A Milano il FTSE Italia All Share guadagna lo 0,98%, il FTSE MIB lo 0,99%. Il miglior titolo in questo momento è Fondiaria SAI, quando manca meno di 20 minuti alla chiusura delle contrattazioni, e guadagna il 3,11%. Il titolo peggiore invece è Terna, che cede poco più di 2 punti percentuali. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,40,72 sul dollaro. E adesso invece andiamo a sentire quali sono le notizie in breve. Come sempre partiamo dal petrolio, apertura in rialzo a New York, più 0,3% a $71,57 al barile. E in merito proprio al prezzo del greggio, una fiammata dei prezzi petroliferi verso i $100 rallenterebbe la ripresa delle principali economie. Questo è quanto ha detto durante una conferenza ad Atene Nouriel Roubini, il professore dell'Università di New York che aveva previsto la crisi del credito. Secondo Roubini, l'economia statunitense il prossimo anno vedrà una crescita dell'1%, mentre per l'Europa e il Giappone si prospetta una situazione di crescita zero. In merito alle previsioni di crescita, da una parte la Banca Mondiale che dice l'economia del mondo quest'anno subirà una gelata segnando un calo del 3%, notevolmente peggiorata come stima rispetto alla precedente di un meno 1,7%. Questo è quanto ha detto il presidente della Banca Mondiale, Robert Zoellig. Anche se la crescita dovrebbe ravvivarsi nel corso del 2010, il ritmo della ripresa sarà incerto e i poveri in molti paesi in via di sviluppo saranno colpiti da contraccolpi della crisi. Su un altro versante troviamo il Fondo Monetario Internazionale, che ha rivisto al rialzo le stime di crescita mondiale per il 2010 al 2,4% dall'1,9% anticipato ad aprile scorso, grazie soprattutto agli effetti dei pacchetti di stimolo messi in atto negli ultimi mesi. Per il 2009 invece le stime restano invariate, con l'economia mondiale che secondo il fondo segnerà una contrazione dell'1,3%. Sulle stime, anche la Banca Centrale Europea ci si aspetta che dopo una fase di stabilizzazione i tassi di crescita sul trimestre precedente risultino positivi entro la metà del 2010. Questo è quanto scrive l'Istituto di Francoforte nel bollettino di giugno, aggiungendo che secondo le attese che emergono dalle indagini recenti, dopo due trimestri di crescita fortemente negativa, l'attività economica dovrebbe diminuire a ritmi molto più contenuti nella rimanente parte del 2009. E veniamo al nostro paese. Il presidente dell'ABI, Faissola, temo che rimanga un anno difficile. Così appunto Faissola a margine dei lavori del 21esimo congresso dell'ACRI, a proposito dell'intervento del direttore generale di Banca Italia Fabrizio Saccomanni, che ha parlato di riflessi negativi sulla qualità del credito destinati a crescere nel prossimo futuro. Ancora Faissola ha detto che è assolutamente inaccettabile che anche da rappresentanti del governo, verso i quali nutro grande stima, ha detto Faissola, venga affermato che l'unico problema del paese sia la fornitura del credito alle imprese. E ancora, le banche italiane devono sostenere ragionevolmente le imprese, ma non oltre, ha detto Faissola, intervenuto sempre oggi al convegno dell'ACRI a Siena. E poi, lo spread tra il costo della provvista e il tasso sugli impieghi non è mai stato così basso come in questo periodo, 2,53% contro il 3,17-3,19% dello scorso anno. L'abbiamo detto oggi, relazione annuale dell'ISVAP, il settore assicurativo ha sostanzialmente retto all'onda d'urto della crisi economica, nonostante il contesto difficile. In Italia non ci sono stati default e non c'è stato bisogno di interventi da parte dello Stato. Questo è quanto ha sottolineato il presidente dell'ISVAP Giancarlo Giannini nel corso dell'assemblea annuale dell'Istituto di Vigilanza. Ancora, il settore RC Auto ha registrato nel 2008 un calo della raccolta del 3%, proseguito anche nel primo trimestre 2009, con un meno 5,2%, con un risultato tecnico passato da 950 milioni circa nel 2007 a 91 milioni nel 2008. Sono questi i dati forniti dal presidente dell'ISVAP nella sua relazione, in cui si sottolinea comunque che la risposta non può consistere nell'aumento delle tariffe, piuttosto occorre ridurre i costi del sistema, le condizioni ci sono, ha detto Giannini. E veniamo a Fiat. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi incontrerà questa sera a Palazzo Chigi il presidente della Fiat Luca Cordaro di Montezemolo e l'amministratore delegato Sergio Marchionne per illustrare i modelli della casa torinese in vista del G8 dell'Aquila. Che cosa ha detto la presidente Emma Marcegaglia dopo la notizia dell'avvenuta vendita ormai di fatto per la Chrysler a Fiat? Sentiamola al microfono di Andrea Viali a margine dell'assemblea di Confartigianato. Molto bene, mi pare la conclusione positiva di un'importantissima fusione. Pensiamo che questo sia un modo per rafforzare Fiat, sia un modo anche per rafforzare il sistema delle imprese, anche delle piccole imprese fornitrici di Fiat. È un grande risultato per la Fiat, ma anche per il paese. Insomma, si conquista uno dei primi gruppi automobilistici mondiali. Ci sarà un grande lavoro da fare, ma mi pare un'ottima notizia. Sentiamo anche quanto ha detto il segretario generale della UIL, Luigi Angeletti, parlando proprio di questo tavolo sulla Fiat che si svolgerà questa sera intorno alle 19. Ascoltiamolo sempre al microfono di Andrea Viali. Penso che debba essere un incontro molto poco diplomatico, nel quale l'azienda ci dice quali sono le condizioni per far sì che negli stabilimenti italiani non ci siano riduzione di capacità produttiva, riduzione dell'occupazione e si possa produrre, anzi aumentare la produzione di auto anche in Italia. E noi adesso ci avviamo verso l'approfondimento del primo dei nostri temi, ovvero l'assemblea annuale della Confartigianato. Vi ricordiamo che la Confartigianato rappresenta oltre 521.000 imprese e imprenditori appartenenti a 870 settori diversi di attività. Che cosa è successo oggi? Il presidente Guerrini ha esordito con queste parole. La crisi ha contribuito a portare al centro dell'attenzione del paese quelle piccole imprese che costituiscono il 99,4% del sistema produttivo. Proprio con queste parole Guerrini ha aperto i lavori e ha ricordato come da tanti anni i piccoli imprenditori non abbiano mai smesso di produrre il Made in Italy e di credere nella fatica e nello spirito di sacrificio necessari per creare benessere. Ancora, la crisi ha dimostrato che noi, i micro e piccoli imprenditori, siamo l'alternativa al declino e il motore dello sviluppo del paese. Dopo le misure per il sistema bancario, e qui è venuta una bacchettata al governo, i provvedimenti per i settori settori industriali, gli incentivi per le rottamazioni, gli interventi per salvare Alitalia, ha detto Guerrini, il governo deve ora pensare alle piccole imprese e quindi all'economia reale. Venendo in maniera più particolare ai dati, ad esempio sull'export, Guerrini ha detto tra marzo 2008 e marzo 2009 le imprese artigiane hanno aumentato le loro esportazioni di quasi un punto percentuale. Sentiamolo. Sul campo sono rimaste purtroppo molte vittime. Molti imprenditori sono stati costretti a chiudere le loro piccole aziende, ben sapendo di non poter contare su quegli aiuti pubblici e quei salvataggi riservati ad altri soggetti che operano nel nostro paese. Ma tanti nostri imprenditori sono in prima fila e tanti sono qui oggi in prima fila a combattere la crisi. Il nostro osservatorio congiunturale rileva che nel primo semestre del 2009, quindi in un momento difficile, un terzo delle piccole imprese ha adottato comportamenti offensivi. Non si è messo a giocare in difesa, gestendo l'ingresso in nuovi mercati, effettuando investimenti in innovazione, introducendo miglioramenti nei processi produttivi, ampliando le linee di produzione. Addirittura tra marzo 2008 e marzo 2009 le imprese artigiane hanno aumentato le loro esportazioni di quasi un punto percentuale. Questo è un estratto della relazione del presidente di Confartigianato Guerrini. Prima di raccontarvi anche il seguito, vi ricordo che il numero a cui potete inviare i vostri sms è 349-238-6666. Guerrini ovviamente ha toccato una nota dolente, che è quella della crisi del credito. Le imprese italiane pagano un conto molto salato per la crisi del credito, è di 13,8 miliardi l'anno l'onere finanziario derivante dal mancato adeguamento ai tassi di riferimento BCE, dei tassi di mercato applicati dalle banche. Sentiamolo ancora. In questi mesi troppi imprenditori con aziende sane ed affidabili si sono sentiti rifiutare o lesinare da molte banche le risorse necessarie per sviluppare la propria impresa e per mantenere il posto di lavoro ai loro dipendenti. Certo, le differenze sono notevoli. Quantità e qualità dei finanziamenti sono decisamente migliori, lo dobbiamo dire, nelle banche più piccole, in quelle radicate nel territorio, soprattutto nelle banche di credito cooperativo e nelle banche popolari. Per le nostre aziende però l'alto costo del denaro non è legato soltanto al momento della crisi, anche nel lungo periodo. Addirittura da gennaio 2006 i tassi medi applicati dalle banche italiane sui prestiti alle imprese sono più elevati rispetto alla media dell'euro, con un maggior costo complessivo per le imprese di 7,1 miliardi di euro. Se i nostri imprenditori non avessero avuto il sostegno di un formidabile strumento come sono i consorzi fidi, che nel 2008 hanno erogato 6,3 miliardi di finanziamenti garantiti ad oltre 700.000 imprese italiane dell'artigianato e dei servizi, probabilmente, anzi io credo sicuramente, molti di loro sarebbero costretti a chiudere. E dopo la nota dolente del credito, della mancanza di credito, altro problema molto avvertito dalle aziende è quello della burocrazia, dei costi della burocrazia. Senza la zavorra burocratica, ha detto Giorgio Guerrini, che pesa per 15 miliardi di euro all'anno sul sistema produttivo, la produttività delle microimprese aumenterebbe del 5,8%. Molto è stato fatto nel corso di quest'anno, ha detto Guerrini, molto però resta ancora da fare. Sentiamo. Vi sono però ancora troppi ostacoli, troppi costi inutili, troppe difformità di trattamento nelle diverse aree del Paese. E allora bisogna proseguire con forza ed efficacia nel processo di semplificazione normativa, tagliare quegli oneri burocratici che pesano per oltre 15 miliardi di euro all'anno, pari a un punto del prodotto interno lordo. Due terzi dei quali gravano sulle microimprese sotto 9 dipendenti. Se il costo pro capite per la gestione dei servizi generali delle amministrazioni pubbliche si allineasse alla media europea, otterremmo un risparmio di 10,4 miliardi di euro. Se tutte le aziende italiane fossero liberate dalla zavorra burocratica, aumenterebbero la produttività del 2,3% e le microimprese addirittura del 5,8%, recuperando più della metà del gap di produttività che oggi scontano rispetto alla media di Francia, Spagna e Germania. È un elenco di problemi quello che fa Guerrini, perché dopo la burocrazia ce n'è anche per la giustizia. In Italia, per avere giustizia in un procedimento civile, bisogna attendere quasi 5 anni e per chiudere un fallimento ne sono necessari 8. Queste sono le cifre lamentate da Guerrini nell'assemblea della Confederazione. Poi ancora, troppi piccoli imprenditori rischiano di non farcela perché devono aspettare mesi prima di essere pagati da un ente pubblico o da una grande impresa committente. Questo è quanto ha denunciato il presidente di Confartigianato. Nell'invocare etica e correttezza nei rapporti economici, Guerrini ha ricordato come in tema di pagamenti l'Italia detenga un record negativo in Europa. La pubblica amministrazione italiana si fa attendere in media 128 giorni, vale a dire 61 giorni in più della media europea, ha proseguito il numero uno di Confartigianato. E poi, una volta superata la crisi economica, la riduzione del carico fiscale sulle imprese deve ritornare una priorità dell'agenda politica del governo. Questa è la richiesta, in sostanza, rivolta all'esecutivo dal presidente della Confartigianato. All'assemblea era presente e intervenuto anche il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, il quale ha detto: avanti, con coraggio e fiducia, soprattutto nei momenti difficili, viene fuori il vero imprenditore. Così Berlusconi dal palco dell'assemblea. Gli imprenditori, ha proseguito il premier, durante le crisi possono guadagnare di più e guadagnare quote di mercato nei confronti di chi ha paura. Viva, ha detto quindi il cavaliere, chi intraprende e chi rischia. E poi ancora, questo governo farà tutto ciò che voi riterrete necessario per sostenere il vostro impegno, il vostro lavoro, che sono fondamentali per lo sviluppo vostro e del paese. In merito poi ai crediti che spettano alle PMI, noi abbiamo ereditato un sistema assolutamente scandaloso, ha detto Berlusconi, e il minimo è che la compensazione dei crediti e dei debiti delle imprese verso la pubblica amministrazione sia fatta da subito. Questo è quanto ha affermato il presidente del Consiglio. Ancora, Berlusconi ha detto: stanotte ho varato il marchio Magic Italy per rilanciare il turismo in Italia. Il nostro obiettivo, che è anche la missione del ministro, è raddoppiare in 4 anni, grazie al turismo, il PIL. Abbiamo la possibilità di farlo. Berlusconi dal palco dell'assemblea ha anche parlato della riduzione delle tariffe dei premi INAIL. Il presidente del Consiglio ha ritenuto le attuali tariffe una cosa scandalosa, che fa sì che la vostra categoria, rivolgendosi ovviamente agli associati di Confartigianato, paghi una tassazione che è assolutamente la più elevata rispetto a tutte le altre. Sentiamo Berlusconi. I punti più importanti delle richieste, di ciò che voi ritenete debba essere fatto, sono la riserva da introdurre per le piccole e medie imprese negli appalti pubblici, la compensazione dei crediti e debiti verso la pubblica amministrazione. Noi abbiamo ereditato un sistema di ritardo nei pagamenti che è assolutamente scandaloso, e quindi il minimo che possiamo fare è la compensazione da introdurre da subito. Il Made in Italy può essere rafforzato con la garanzia che tutto il prodotto sia realizzato in Italia, 100% fatto in Italia. Noi oggi stiamo anche lavorando, ho approvato proprio questa notte il marchio che è stato definito dicendo Magic Italy, per lanciare l'Italia e attirare qui turisti da tutti i paesi del mondo. Infine, la riduzione delle tariffe dei premi INAIL, anche qui ritengo che sia scandaloso, perché questo fa sì che la vostra categoria sia sottoposta a una tassazione che è assolutamente la più elevata rispetto a tutte le altre tassazioni. Ricordiamo che alla fine del mese di aprile, proprio sul tema dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, quindi il tema compensazione dei crediti e dei debiti delle imprese, è stato affrontato dal ministro dell'Economia Tremonti di fronte al direttivo degli industriali. Tempi certi per i pagamenti futuri, questo è il senso emerso da quel confronto, ma il pregresso, che vale all'incirca il 3% del PIL, sarà spalmato nel tempo. Intanto i ritardi già gravissimi si sono allungati, questo è quanto è venuto fuori in quell'incontro, è una montagna da abbattere e il recente confronto con Tremonti sembra ovviamente non aver fugato del tutto i timori, anche perché il 3% del PIL è una somma davvero imponente. Nell'assemblea di oggi è intervenuto anche il ministro Scajola, il quale ha detto: dopo la costituzione del fondo di garanzia esteso anche all'artigianato, in soli 40 giorni abbiamo soddisfatto 1.100 domande presentate dalle imprese artigiane. Questo è quanto ha detto il ministro dello sviluppo economico. Poi anche lui è tornato sull'argomento dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione. Nei prossimi giorni il governo porterà in Consiglio dei Ministri il regolamento attuativo dello sportello unico per le attività produttive e le direttive per rendere operative le prime misure di semplificazione burocratica e soprattutto di accelerazione della riscossione dei crediti verso la pubblica amministrazione. Questo è quanto ha annunciato Scajola, ma sentiamolo al microfono di Andrea Viali. In questo anno di governo per il settore dell'artigiano abbiamo fatto l'estensione del fondo di garanzia anche agli artigiani che ne erano esclusi. Nell'ultimo mese c'è stato un aumento di domande in questo fondo del 142%, abbiamo fatto l'IVA per cassa, la revisione degli studi di settore, il prossimo Consiglio dei Ministri porteremo lo sportello unico impresa in un giorno, che significa semplificazione. Mi pare che per il settore dell'artigianato abbiamo fatto molto, come è giusto che sia, perché l'artigianato è una delle attività portanti dell'economia del nostro Paese. Era presente anche la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Mi auguro che le rassicurazioni del governo si traducano nel breve in provvedimenti per risolvere i problemi che lo stesso Premier ha definito una vergogna nazionale. In particolare proprio si riferiva la presidente degli industriali ai crediti che deve dare la pubblica amministrazione, ai quali la pubblica amministrazione deve dar seguito. Sentiamo proprio Emma Marcegaglia a margine della assemblea, intervistata da Andrea Viali. I temi principali sono anche i temi che abbiamo posto noi, cioè l'esigenza di sostenere il credito, di dare importanza al lavoro, ma dall'altra parte anche di fare le grandi riforme di cui il Paese ha bisogno, dalla pubblica amministrazione, le liberalizzazioni, il welfare, quindi una relazione che condivido totalmente. Tra il ministro Scajola hanno evidenziato l'importanza delle piccole imprese, questo tema del business, del Small Business Act, bene, quindi come dire, mi pare che abbia dato alcune risposte a quanto chiedeva Guerrini. Oltre al presidente Silvio Berlusconi e al ministro Scajola, dell'esecutivo è intervenuto all'assemblea di Confartigianato anche il ministro del welfare Sacconi. Le imprese artigiane legittimamente chiedono un contesto utile a sopravvivere nella crisi e a prepararsi al dopo crisi. Noi, non a caso, ha detto Sacconi, abbiamo voluto estendere gli ammortizzatori sociali anche ai dipendenti delle imprese artigiane. E poi l'economia italiana dà segnali positivi, ha detto Sacconi, in certa misura anche più interessanti di altri paesi, ma sentiamolo. Le piccole imprese legittimamente chiedono un contesto utile a sopravvivere nella crisi e a prepararsi al dopo crisi. Noi non a caso abbiamo voluto estendere gli ammortizzatori sociali anche ai dipendenti delle imprese artigiane, così come abbiamo voluto semplificare drasticamente molta della regolazione che riguarda proprio le piccole imprese, in modo tale che esse siano messe appunto in condizione di prepararsi anche a una nuova fase competitiva. L'economia italiana dà segnali positivi, in certa misura anche più interessanti di altri paesi. Credo che su questi si debba oggettivamente fare leva per favorire la ricostruzione del circolo virtuoso della fiducia e della crescita. Sarebbe molto colpevole sottovalutare questi segnali positivi, così come ha cominciato a frenare l'andamento della cassa integrazione degli ammortizzatori sociali, e così come dobbiamo registrare una robusta tenuta nelle condizioni di difficili date della coesione sociale nel Paese, per fortuna. Era presente il governo, era presente la presidente degli industriali, era presente ovviamente anche il mondo sindacale. Il periodo di crisi lo stanno attraversando tutti, sicuramente le piccole imprese rappresentano la spina dorsale della nostra economia e quindi bisognerà fare di tutto per sostenerle. Questo è quanto ha detto Luigi Angeletti, segretario generale della UIL, ma ascoltiamolo. Purtroppo il periodo di crisi lo stanno attraversando tutti. Sicuramente le piccole imprese rappresentano la spina dorsale della nostra economia e quindi bisognerà fare di tutto per sostenerle, a cominciare ovviamente da una politica che incentivi le imprese, anche quelle piccole, a non licenziare, magari attraverso una riduzione dei contributi per tutte quelle imprese virtuose che rinnovano i contratti a termine e non licenziano. Le 17:37 minuti, ben ritrovati. Come dicevamo in apertura di programma, a questo punto vi presentiamo un convegno che si apre oggi a Venezia. Di che cosa si parla? Oggi fino al 13 giugno all'isola di San Servolo si tiene la conferenza internazionale su felicità e beni relazionali in ambito economico. In sostanza si vuole capire di che bene si tratta quando si parla di relazione, anche in termini proprio concreti. Per far questo, per capire di più di questo convegno, abbiamo raggiunto telefonicamente Luigi Bruni, professore associato di economia politica all'Università di Milano Bicocca, membro del comitato etico di Banca Etica, autore del libro L'impresa civile, una via italiana all'economia di mercato. È uno degli organizzatori di questa conferenza internazionale in cui intervengono oltre 120 relatori da tutto il mondo, e ci siamo fatti spiegare di che cosa si tratta. Questo è un convegno che si colloca su una linea di riflessione che dal 2003 portiamo avanti con un gruppo di economisti italiani, ma sempre più poi internazionali, sul tema della felicità pubblica in particolare, anche perché è uno dei grandi temi con cui l'economia nasce nel Settecento, soprattutto in Italia, come scienza della pubblica felicità. Quindi noi abbiamo ripreso nel 2003 la prima volta questo tema, l'abbiamo lanciato su un campo internazionale. Oggi siamo al quarto o quinto convegno sul tema, e in particolare questa volta l'abbiamo voluto dedicare al rapporto specifico fra felicità e rapporti interpersonali, beni relazionali, che poi sono in economia quei rapporti a motivazione intrinseca, cioè quei rapporti che hanno in se stessi la loro giustificazione, non sono solo mezzi per fare altro, perché in realtà l'economia ha sempre visto i rapporti interpersonali come non come un valore intrinseco, ma come uno strumento per comprare, vendere, produrre. Abbiamo avuto uno straordinario successo, nel senso che in mezzo a questo convegno abbiamo ricevuto tante proposte, più di 150 proposte da tutto il mondo. Non ci stupisce il fatto che abbiate avuto così tante richieste, perché in un momento di crisi come questo in molti parlano dell'importanza della relazione, del riscoprire un certo tipo di valori, però poi molto spesso restano solo parole. Allora io le chiedo, visto che lei è professore di economia politica, quindi si occupa anche proprio del concreto, come questo può aiutare a salvare una certa la coesione sociale di cui molti parlano e di cui molti si preoccupano, non ultima la presidente Marcegaglia lo ha ricordato in più occasioni, di stare molto attenti a quello che è la tenuta del tessuto sociale, perché se non tiene quello veramente tutto può, come dire, dissolversi, può veramente ingenerarsi un meccanismo anche di violenza, se vogliamo. Infatti proprio questo è il punto, cioè sono due le funzioni nelle quali i rapporti sono importanti in economia. Innanzitutto dentro l'impresa, dentro le organizzazioni, che ormai sappiamo da anni, da decenni, in realtà abbiamo sempre saputo, ma negli ultimi anni, forse un paio di decenni, si è messo in luce che la gente che vive rapporti conflittuali, che sta male al lavoro, produce meno e le imprese vanno male, cioè nel senso che nelle economie postmoderne fatte essenzialmente di rapporti, di conoscenza e meno di fabbrica, di visione del lavoro fordista, come si dice, dove la gente deve stare diciamo fianco, dove lavorare in equipe, lavorare in gruppo e dove la conoscenza è dentro le teste delle persone, non è estraibile con il bastone e la carota. In un'economia di questo genere le relazioni, la qualità dei rapporti nel lavoro ha molto a che fare con la produzione economica la più ordinaria. Gente che sta meglio al lavoro lavora meglio, l'impresa funziona meglio. Oggi le imprese falliscono anche per conflitti relazionali. Di questi fenomeni poi abbiamo dei macro effetti come il mobbing da una parte e dall'altra tutta l'attenzione al tema del benessere lavorativo, che è un grande tema degli ultimi decenni. Professore, si dice, si è molto detto anche negli ultimi mesi, c'è bisogno di riformare questo capitalismo, forse dopo questa crisi quello che verrà sarà un capitalismo diverso, anche se insomma i segnali non sono proprio così incoraggianti. Allora io le chiedo, come si devono leggere e se si devono leggere insieme il concetto di mercato e il concetto di capitalismo? E questa è una grande domanda, sulla quale grandi studiosi sono confrontati, vorrei dire, nei secoli, almeno da un paio di secoli sicuramente. Io credo che innanzitutto le crisi, ogni crisi individuale, comunitaria, collettiva, è sempre ambivalente. Cioè si può uscire da una crisi migliorati, si può uscire da una crisi incattiviti e avvelenati, perché la crisi di per sé non dice nulla sull'esito, dipende come la viviamo e che cosa impariamo durante la crisi. Questo vale, ripeto, per le persone, che da una depressione si può uscire migliorati, ma si può anche uscire peggiorati. Quindi vale anche per le economie. Ora ci siamo dentro e non possiamo prevederne con certezza l'esito. Da un certo punto di vista noi vediamo da dati empirici che, ad esempio, l'attenzione delle imprese per temi di responsabilità sociali, per temi di attenzione alla povertà, tutti i temi della CIE, della Corporate Social Responsibility, le voci di bilancio per queste tematiche negli ultimi mesi sono state tagliate, perché quando c'è la crisi qualcuno pensa che questi aspetti sono dei beni di lusso. Abbiamo questi segnali che in realtà fanno preoccupare un po', perché fanno mettere in luce che quando c'è una crisi si diventa un po' più cinici. D'altra parte, mai come in questi tempi, io stesso che mi occupo di queste tematiche ricevo, ma insieme ad altri economisti, una quantità impressionante di inviti da settore non profit o dall'economia sociale, ma da banchieri, da multinazionali, cioè per riflettere sull'etica economica, per riflettere di più soprattutto su qual è il senso di fare impresa, perché una cosa che viene in questo momento messa in discussione è un po' questo: ma qual è lo scopo dell'impresa? Perché per troppi anni abbiamo dato per scontato che lo scopo dell'impresa fosse appunto massimizzare i profitti e tutto il resto fosse un vincolo, compreso l'etica, che si deve rispettare, perché lo scopo ultimo in realtà è il profitto sotto vincolo. Quello che oggi sta venendo in luce, si sta riscoprendo un'antica distinzione che io amo molto, che è quella fra imprenditore e speculatore. Lo speculatore come scopo il profitto, l'imprenditore come scopo un progetto che ha dei vincoli tra cui il profitto, ma lo scopo per cui agisce non è massimizzare i profitti, ma è massimizzare un progetto che in qualche modo è sociale, sotto un vincolo di efficienza ovviamente, perché altrimenti si chiude. Il capitalismo è una versione dell'economia di mercato recente, quindi io credo che l'economia di mercato è una realtà che durerà nei prossimi secoli, perché il mercato è una meravigliosa invenzione ed è un sistema ottimo per allocare le risorse, mentre ho dei dubbi che questo capitalismo finanziario che abbiamo messo su, in particolare come finanziario negli ultimi 50-60 anni, credo che debba essere profondamente ripensato con una maggiore attenzione non solo a regole, come si dice molto oggi, ma con una riflessione più globale sul senso di fare impresa, sul nuovo patto sociale che rimette in discussione la natura dell'impresa, dell'imprenditore, della politica nell'economia, non come controllo ma come presenza più democratica, più democrazia economica, e quindi una maggiore attenzione globale sul mercato, sul capitalismo. Però resta il fatto che il profitto resta comunque un pilastro, diciamo, del fare impresa. Assolutamente. Il profitto, intanto bisogna capire che cosa si intende per profitto, perché il profitto, come lei ben sa, è la punta di un iceberg. Cioè un'impresa produce molto più ricchezza rispetto al profitto. Il profitto è ciò che reside un segnale di qualcosa che è molto più ampio, che è il valore aggiunto, che è la ricchezza. Cioè l'impresa deve produrre ricchezza. Che poi la ricchezza siano profitti, questo possiamo discuterlo un po', perché ovviamente il profitto è una parte della ricchezza di un'impresa. Vediamo benissimo che le imprese che hanno fatto tanti profitti in questi decenni, in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, sono arrivate a dei grandi bidoni. Quello che io intendo, non solo io, ovviamente la teoria economica, anche quella più, diciamo, neoliberale, è che il profitto è una variabile dell'impresa, non può essere l'unica, perché se diventa l'unica, soprattutto il profitto di breve periodo, di brevissimo periodo, alla lunga viene meno il bene comune più importante, che è l'impresa stessa che deve continuare. Le 17:50 e 13 secondi, a chi ci chiede di ripetere il nome dell'economista che ha parlato, che ci ha raccontato di questo convegno che si è aperto a Venezia, si chiama Luigi Bruni, professore associato di economia politica all'Università di Milano Bicocca. Adesso invece è il momento di andare sui mercati. E lo facciamo in compagnia oggi di Eleonora Micheli, la collega di Radiocor. Buonasera Eleonora. Buonasera a tutti. Una giornata che si è chiusa positivamente per le piazze europee e ancora una volta meglio ha fatto Milano con il FTSE Italia All Share che ha guadagnato l'1,42%, il FTSE MIB l'1,41%. In evidenza, Eleonora, i petroliferi sulle quotazioni del greggio. Esatto, infatti il petrolio, il WTI a New York ha iniziato le contrattazioni questo pomeriggio, in rialzo e sopra i $71 al barile. Infatti hanno accelerato proprio i titoli del settore petrolifero. Nel dettaglio Eni ha guadagnato sul finale il 2,23%, attestandosi a €18,35, mentre Saipem è salita dell'1,67% a €19,43. Eleonora, male Ansaldo dopo il giudizio negativo di Goldman Sachs? Sì, male, d'altra parte non malissimo, nel senso che diciamo male nella prima parte della seduta. Le Ansaldo poi nel pomeriggio, quando peraltro la borsa è nettamente migliorata, hanno ripreso a correre, hanno chiuso con un progresso dello 0,76%. È vero però che questa mattina i titoli andavano male in controtendenza con il listino a causa appunto di una revisione al ribasso del giudizio da parte di Goldman Sachs, che anzi ha consigliato di vendere le azioni. Invece ha chiuso con il segno meno Bulgari, meno 0,83%. Sì, infatti ieri la società appunto ha lanciato delle obbligazioni indicizzate per un controvalore di €130 milioni. Ieri, prima nell'attesa, poi appunto appena comunicata l'operazione, i titoli erano stati ben acquistati. Oggi di conseguenza pausa di riflessione, i titoli hanno rimato dello 0,8%, durante la seduta avevano perso anche di più, ma hanno recuperato terreno proprio sul finale. Per quanto riguarda Enel, la seduta si è chiusa con un rialzo dell'1,11%, un titolo che in fondo nelle ultime settimane ha un po' sofferto. Sì, c'è molta attenzione tuttavia su Enel, perché non solo è in corso l'aumento di capitale, peraltro domani è l'ultimo giorno. Per contrattare i diritti relativi all'aumento di capitale, poi l'aumento di capitale terminerà la settimana successiva. D'altra parte, diciamo, a riaccendere i riflettori sull'azienda sono state notizie di stampa secondo le quali China Investment Corporation è interessata a investire appunto in Enel. Secondo la stampa, inoltre, oggi si è tenuta un incontro telefonico tra l'amministratore delegato del gruppo Enel, ovvero Fulvio Conti, e il presidente del fondo cinese. Pare che sia allo studio la possibilità di investire direttamente in Enel, rilevando una quota, si dice tra il 3 e il 5%, oppure acquistando anche una quota della controllata Enel Green Power. È tutto da vedere, d'altra parte il mercato evidentemente sembra scommettere su questa eventualità. Mediolanum più 1,13% alla fine delle contrattazioni. Sì, Mediolanum ha rallentato un po' sul finale, d'altra parte si può dire che i titoli corrono dallo scorso venerdì hanno messo a punto un guadagno attorno al 10%, e questo perché ricordiamo che venerdì scorso sono stati resi noti i dati sulla raccolta del risparmio gestito, tornata positiva dopo ben 20 mesi, quindi questo ha dato, diciamo, un segnale di incoraggiamento per tutte le aziende che operano nel risparmio gestito, in primis per le Mediolanum. Eleonora, ci scrive un'ascoltatrice che ci chiede se la possiamo informare a proposito della distribuzione dello 0,62 euro per azione di management e capitali è in denaro. Sì, è di 0,62 euro e verrà appunto distribuito cash. Invece io volevo chiederti se ci sono motivazioni particolari per cui Fondiaria Sai è il titolo che ha chiuso come miglior titolo con un rialzo del 3,19%, mentre Terna come peggiore, meno 2,36%. su Terna non ci sono motivazioni particolari. Fonsai oggi c'era grande attenzione, diciamo, su tutto il comparto delle assicurazioni, visto che si teneva la relazione annuale dell'ISVAP, e proprio a margine infatti di questo appuntamento lo stesso Marchionni, che è l'amministratore delegato della compagnia assicurativa, ha detto che entro l'anno verrà effettuato un nuovo piano per la società. Ovviamente l'amministratore ha detto che sarà necessario aspettare ancora per fare un piano più serio. A chi ci chiede la chiusura di Unicredit e Fiat, Unicredit ha chiuso con un rialzo del 2,27%, Fiat dell'1,99%. Grazie Eleonora Micheli per essere stata con noi, a lei buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Le 18:08, ben ritrovati ancora in compagnia di Focus Economia. In questa seconda parte del programma vi racconteremo quanto è stato detto nel corso della relazione annuale dell'ISVAP, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, e poi, come annunciato in apertura di programma, parleremo di calcio e in particolare parleremo dei bilanci di alcune squadre e cercheremo di capire come il Real Madrid, che è una squadra molto indebitata, si può permettere di comprare Cristiano Ronaldo per una cifra da capogiro che supera i 90 milioni di euro. Adesso però velocemente vi dico che cosa sta succedendo sui mercati. Il Dow Jones guadagna uno 0,62%, il Nasdaq lo 0,45%, lo Standard & Poor's lo 0,79%. L'Europa archivia una giornata tutto sommato positiva, con Parigi che ha guadagnato lo 0,59%, Francoforte più 1,11%, Londra più 0,57%. Meglio ha fatto Milano, dove il FTSE Italia All Share ha guadagnato l'1,42%, il FTSE MIB l'1,41%. Sul listino principale il miglior titolo è stato Fondiaria SAI più 3,19%, Pirelli ha guadagnato il 3,17%, l'Automatica il 2,40%. In fondo al listino invece Terna, che ha ceduto il 2,36%, Buzzi Unicem e la Popolare di Milano hanno ceduto poco più di un punto percentuale, Bulgari lo 0,83%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,40,81 sul dollaro. Adesso le notizie in breve. Lo abbiamo detto in apertura, lo abbiamo detto nel corso dei mercati, dell'approfondimento sui mercati. Il petrolio ha rialzato ancora la testa, apertura in rialzo a New York, più 0,3% a $71,57 al barile. Parliamo di stime, qui proprio ci verrebbe da dire quasi stime in libertà, perché la Banca Mondiale dice che l'economia mondiale quest'anno subirà una gelata, segnando un calo del 3%, notevolmente peggiorato rispetto alla precedente stima di un meno 1,7%. Questo è quanto ha detto il presidente della Banca Mondiale, Robert Zoellig. Anche se la crescita dovrebbe ravvivarsi nel corso del 2010, il ritmo della ripresa sarà incerto, ha detto Zoellig. Il Fondo Monetario Internazionale invece ha rivisto al rialzo le stime di crescita mondiale per il 2010 al 2,4% dall'1,9% anticipato ad aprile scorso, e questo grazie soprattutto agli effetti dei pacchetti di stimolo messi in atto negli ultimi mesi. Per il 2009 invece le stime restano invariate, con l'economia mondiale che secondo il Fondo segnerà una contrazione dell'1,3%. Stime anche da parte della BCE. Ci si aspetta che dopo una fase di stabilizzazione i tassi di crescita sul trimestre precedente risultino positivi entro la metà del 2010, lo scrive la BCE nel bollettino di giugno, aggiungendo che secondo le attese che emergono dalle indagini recenti, dopo due trimestri di crescita fortemente negativa, l'attività economica dovrebbe diminuire a ritmi molto più contenuti nella rimanente parte del 2009. E poi nella prima parte del programma vi abbiamo raccontato dell'assemblea di Confartigianato. La crisi ha contribuito a portare al centro dell'attenzione del paese quelle piccole imprese che costituiscono il 99,4% del sistema produttivo. Con queste parole il presidente Giorgio Guerrini ha aperto i lavori dell'assemblea della Confartigianato a Roma. Guerrini ha ricordato come da tanti anni i piccoli imprenditori non abbiano mai smesso di produrre il Made in Italy e di credere nella fatica e nello spirito di sacrificio necessari per creare benessere. E ancora la crisi, ha detto Guerrini, ha dimostrato che noi, i micro e piccoli imprenditori, siamo l'alternativa al declino e il motore dello sviluppo del paese. E poi una stoccata al governo. Dopo le misure per il sistema bancario, i provvedimenti per i settori industriali, gli incentivi per le rottamazioni e ancora gli interventi per salvare Alitalia, il governo deve ora pensare alle piccole imprese, all'economia reale, ha detto Guerrini, il quale ha poi precisato che tra marzo 2008 e marzo 2009 le imprese artigiane hanno aumentato le loro esportazioni di quasi un punto percentuale. E poi un lungo elenco di problematiche, tra cui spicca quella della crisi del credito. Le imprese italiane pagano un conto molto salato per la crisi del credito, è di 13,8 miliardi l'anno, l'onere finanziario derivante dal mancato adeguamento ai tassi di riferimento BCE dei tassi di mercato applicati dalle banche. Ma sentiamo Guerrini. In questi mesi troppi imprenditori con aziende sane ed affidabili si sono sentiti rifiutare o lesinare da molte banche le risorse necessarie per sviluppare la propria impresa e per mantenere il posto di lavoro ai loro dipendenti. Certo, le differenze sono notevoli. Quantità e qualità dei finanziamenti sono decisamente migliori, lo dobbiamo dire, nelle banche più piccole, in quelle radicate nel territorio, soprattutto nelle banche di credito cooperativo e nelle banche popolari. Per le nostre aziende però l'alto costo del denaro non è legato soltanto al momento della crisi, anche nel lungo periodo. Addirittura da gennaio 2006 i tassi medi applicati dalle banche italiane sui prestiti alle imprese sono più elevati rispetto alla media dell'euro, con un maggior costo complessivo per le imprese di 7,1 miliardi di euro. Se i nostri imprenditori non avessero avuto il sostegno di un formidabile strumento come sono i consorzi fidi, che nel 2008 hanno erogato 6,3 miliardi di finanziamenti garantiti ad oltre 700.000 imprese italiane dell'artigianato e dei servizi, probabilmente, anzi io credo sicuramente, molti di loro sarebbero costretti a chiudere. Questo era Giorgio Guerrini, presidente di Confartigianato, il quale ha elencato anche altri problemi cui sono sottoposte le piccole e medie imprese, come ad esempio gli oneri burocratici per 15 miliardi annui, e poi ancora la giustizia lenta che ha un costo molto alto per le imprese, e poi ancora una volta i ritardi, fortissimi ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Adesso però vi raccontiamo che cosa è successo questa mattina all'assemblea annuale dell'ISVAP. L'ISVAP, l'Istituto di Vigilanza sulle Imprese Assicurative, ricordiamo che il mondo assicurativo italiano è composto da 244 imprese, 46.000 dipendenti, il valore complessivo dei premi italiani è di circa 103 miliardi di euro, 40 miliardi circa nel ramo vita, 63 nel ramo danni. Il settore assicurativo ha sostanzialmente retto all'onda d'urto della crisi economica, questo è quanto ha detto il presidente Giancarlo Giannini. Nonostante il contesto difficile, in Italia non ci sono stati default e non c'è stato bisogno di interventi da parte dello Stato. Intervistato da Cristina Fei a margine del suo intervento, Giannini ha poi auspicato che le imprese del settore si focalizzino sull'attività propriamente assicurativa. È un bene, a mio avviso, che il mercato assicurativo torni a svolgere maggiormente la funzione di assicuratore. La banca assicurazione ancora ha delle grosse possibilità, ma possono vendere come stanno vendendo anche polizze vita tradizionali, e soprattutto io vedo una banca assicurazione anche delle grosse prospettive per i rami danni, polizze semplici, polizze diciamo così di costo modesto che coprono solo le punte dei rischi e non, faccio un esempio, non so, polizze malattie, i grandi interventi o solo i ricoveri, polizze infortuni con una franchigia adeguata. Secondo me con queste piccole gocce d'oro il mercato, oltre che lo sviluppo sui grandi temi pubblico-privato, potrebbe cercare di colmare questo gap che è sempre forte. Uno dei vantaggi che il settore assicurativo ha avuto rispetto al settore bancario è che non ha avuto come impatto un problema di liquidità, perché prima prendi i premi e poi paga. Però bisogna che questo concetto sia un fulcro per evitare che invece un dimensionamento eccessivo delle uscite, cioè la corsa ai riscatti, poi le scadenze naturali dei pagamenti delle rendite, portino, come è avvenuto nel 2007 e nel 2008, diciamo uno squilibrio, cioè abbiamo le uscite superiori alle entrate. Il presidente Giannini si è poi soffermato sul settore RC Auto, che ha registrato nel 2008 un calo della raccolta del 3%, proseguito anche nel primo trimestre del 2009 con un calo del 5% circa, con un risultato tecnico che è passato da 957 milioni nel 2007 a meno 91 nel 2008. Sono i dati forniti appunto dal presidente Giannini, il quale ha anche detto che nel 2008 il mercato assicurativo ha ricevuto circa 96.000 reclami, con un incremento dell'11% rispetto al 2007, anno che aveva già registrato un'impennata del 65%. Le 18:21 minuti, allora siamo arrivati a parlare di quella che è un po' la notizia di oggi sostanzialmente, perché in tutto questo panorama economico e non, bisogna dire che spicca il passaggio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid per una cifra da 90 e passa milioni di euro. Noi ne parliamo, anzi cerchiamo di capire come sia possibile spendere questo genere di cifre per un club che è comunque molto indebitato, in compagnia del collega del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, che ci ha raggiunto in studio. Buonasera Marco. Buon pomeriggio. Anche perché il primo SMS, proprio il primo in ordine di tempo che è arrivato oggi, è: premessa, non mi piace il calcio, ma ho una domanda. Con la Spagna così in crisi, dove trova i soldi Florentino Perez? Qual è il suo campo di attività? Chi è? E questa devo dire che è una domanda che mi sono fatta anch'io, che non voglio smentire il luogo comune, che sono una donna e non mi interesso di calcio, che è così. Ogni tanto parlo, dico cose in libertà, non capendo molto bene, però capendoci un po' di più di numeri mi sono chiesta come mai il Real Madrid, che è così indebitato, e poi ti chiedo di dire anche quanto è indebitato, si può permettere di spendere tra Cristiano Ronaldo e Kakà più di 160 milioni di euro per acquistare due giocatori. Beh, non sei la sola che si è fatta questa domanda in, lo immagino in questi oggi. Giorni, anche i dirigenti finanziari del Barcellona, per esempio, che è la grande rivale in Spagna del Real Madrid, si chiedono come sia possibile per Florentino Perez, che pure è uno dei più grandi imprenditori spagnoli, è molto attivo nel campo immobiliare, ha fatto grandi affari in questi anni e quindi può permettersi questi investimenti, nonostante insomma il mercato immobiliare in Spagna, come in gran parte d'Europa, sia in netto calo. In ogni caso il Real Madrid ha debiti molto consistenti, parliamo negli ultimi bilanci di 562 milioni di euro, ha però come dire, una struttura societaria, finanziaria, che gli permette di sostenere queste spese. C'è in Spagna un prelievo fiscale che agevola le società di calcio nell'acquisto di campioni stranieri, come ha rimarcato per esempio lo stesso Galliani qualche minuto fa, ribadendo una sua vecchia battaglia, dicendo sostanzialmente che se per un contratto di 10 milioni di euro, più o meno quanto guadagnerà Ronaldo, quanto guadagnerà Kakà, che vanno al Real Madrid, questo contratto costa in Italia a una squadra italiana, un club italiano, 20 milioni di euro contro i 13 milioni di euro che lo stesso tipo di ingaggio costa poi effettivamente alla società spagnola. Questo perché sui giocatori stranieri che arrivano in Spagna per 5 anni è prevista un'aliquota agevolata del 24% contro il 43 oltre, insomma, c'è in Italia, insomma. Esattamente. E sempre giocando su queste aliquote fiscali privilegiate, per esempio, si capisce perché Kakà ha scelto la squadra spagnola di Real Madrid e non il Manchester City a gennaio, al di là delle motivazioni sportive, e perché per esempio Cristiano Ronaldo si sposta dall'Inghilterra alla Spagna, perché in Inghilterra l'anno prossimo scatterà per i redditi superiori a 150.000 euro un'aliquota superiore al 50%, e quindi questo, insomma, chiaramente certo, non è un incentivo a restare oltre manica, e la Spagna è un po' il paradiso in questo momento per i calciatori, per quanto i calciatori contrattino i loro ingaggi al netto e quindi sostanzialmente si parli certo, poi di costo per la squadra. Parlavamo anche della struttura dei club spagnoli, in particolare del Real Madrid, che è una struttura un po' diversa. Questo fatto che sono delle associazioni poi sostanzialmente. Sì, club di vertice in particolare, poi il Barcellona, ma lo stesso Real Madrid, hanno una struttura associativa più che societaria, quindi non sono società che devono rendere un dividendo immediato ai soci, sono una sorta di grandi cooperative con un enorme parco di associati che versano contributi che sono peraltro esentasse e possono permettersi. Torniamo sempre allo stesso punto. Beh, il fisco è dirimente in questo momento per le competizioni internazionali. Lo stesso Platini, che è stato pochi minuti fa interpellato su questo tema, ha ribadito la sua diciamo battaglia per il fair play finanziario. C'è una diversità di regole fiscali, ma non solo fiscali, in Europa, per cui la competizione sportiva ormai è sostanzialmente determinata dalla possibilità di accumulare grandi debiti e quindi acquistare grandi campioni e accedere alle fasi finali della Champions League, che sono quelli più ricchi, invece insomma c'è il tentativo della UEFA di creare delle griglie. Chiaramente ogni paese stabilisce le sue regole, ma la UEFA può stabilire che se ci sono squadre molto indebitate, queste non potranno accedere alle grandi competizioni internazionali. In Italia non sarebbe possibile, ad esempio, per un Manchester United che ha 790 milioni di euro di debiti, di iscriversi al campionato, e non sarebbe possibile neanche per il Real Madrid, che ne ha 500 e più che altro non potrebbero esistere, perché ecco. Il codice civile impone che se si superano certe soglie di indebitamento si deve ricapitalizzare. E questo è il motivo per cui a ogni chiusura di assemblea che ratifica una perdita le proprietà dei singoli club devono mettere mano al portafoglio, e parlo in particolare del signor Moratti o del signor Berlusconi, che sono stati costretti finora a chiudere grandi buchi di bilancio, insomma oltre 150 milioni quelli dell'Inter quest'anno, 70 milioni quelli del Milan sempre quest'anno, 70 milioni che vengono raccoperti con la cessione di Kakà. La stessa diciamo lo stesso obbligo di ricapitalizzare subito non c'è in Inghilterra, è meno severo in Spagna, per cui se il club produce comunque degli utili, e per loro fortuna Spagna e Gran Bretagna sono campionati che proprio in quanto pieni di campioni attirano l'interesse televisivo in tutto il mondo e quindi vendono i diritti televisivi in maniera più proficua che in Italia, noi guadagneremo in quanto italiani dalla vendita dei diritti televisivi collettivi almeno 900 milioni, in Gran Bretagna sono oltre 2 miliardi di sterline, chiaramente c'è una notevole differenza e tutto questo, ripeto, diventa decisivo ai fini della competizione sportiva. Accaparrarsi grandi campioni, raggiungere una posizione dominante diventa molto più semplice per chi ha regole meno stringenti e può giocare sulle aliquote fiscali, sempre per tornare al tema della giornata. Marco, in una battuta, ci sono o si possono profilare secondo te rischi anche per l'anno prossimo per le iscrizioni dei club italiani, come è successo negli anni passati, per questioni di bilancio? No, perché è stata fatta una grande pulizia, compreso il fatto che molti club, come si ricorderà, Fiorentina, Torino, Napoli, sono falliti, e quindi c'è un'attenzione maggiore in Italia sui bilanci. Questa attenzione comporta una maggiore capacità di competere sul piano sportivo, però almeno dal punto di vista dei bilanci siamo tranquilli. Siamo a posto. Grazie a Marco, grazie Bellinazzo. A il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio in redazione Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, e in regia Fabio Cantadori. L'appuntamento con Focus Economia è per domani alle 17:00.